La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci puntuali come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La rosa purpurea, staremo insieme un'ora a vedere le nuove uscite, i nuovi film in sala, ad ascoltare i protagonisti, avremo come sempre interviste esclusive, giocheremo insieme per vincere i film più belli della stagione attraverso il nostro quiz sul film misterioso, in una settimana che cinematograficamente è sempre una settimana complessa, perché da una parte la concomitanza col Festival di Sanremo chiaramente porta un certo drenaggio di uscite di casa, come potete immaginare, e d'altra parte è stata anche quest'anno la settimana del cinema 2 euro, il famoso secondo mercoledì del mese, che ha veramente avuto anche questa, in questa sua puntata, diciamo così, un grande successo, ma che ha, come dire, succhiato tantissimi spettatori su film molto molto attesi, che stanno andando già molto bene nelle sale. Penso a La La Land, per esempio, e a Split, che hanno fatto veramente il pienone mercoledì scorso. Chiaramente la gente ne ha approfittato andando quel giorno lì e non andando magari i giorni dopo. Questo per dire cosa? Che nel box office è partito fortissimo uno dei nuovi film, uno dei film che mercoledì non erano in sala, ovvero 50 sfumature di nero. È uno dei film più attesi, almeno dagli esercenti, per gli incassi probabili che porterà a casa. È partito forte, come dicevo, anche al botteghino. Noi, come sempre, invece andiamo ad analizzarlo un po' dal di dentro. Abbiamo affidato l'arduo compito alla nostra Chiara Pizzimenti. Voglio che torni da me. Non sono molto bravo in questo. Non volevo rifare un tentativo. Vuoi cenare con me? Ok, va bene, vengo a cena con te. Perché ho fame. Ma parliamo solamente. Devi essere molto più veloce, Gray. Che cosa vuoi, Anastasia? Nessuna regola. E niente più segreti. A questo giro i puntini sulle i li mette Anastasia. Niente regole, niente punizione, niente segreti, dice al suo Christian Grey all'inizio del capitolo 2 della saga delle sfumature. Sfumature erotiche, ovviamente. Dal grigio si passa al nero, ma vederlo al cinema il risultato è più o meno lo stesso. La stessa noia del capitolo precedente, anche se qui Mr. Grey torna da lei pentito e un po' meno sadomaso, ma sempre con un pesante passato che si rivede in incubi notturni, in una ex armata e nella prima amante, la super cougar Kim Basinger. Vuoi restare lì a fissarmi? Sì. Il tuo ragazzo ha una cattiva reputazione. Tu vuoi essere mantenuta o avere rispetto? Pensi di essere la prima donna che cerca di salvarlo? Sospirare si sospira, sesso se ne fa, ma neanche così sfrontatamente. A detta delle appassionate, noi l'abbiamo visto in una sala che contava almeno 300 donne e meno di una decina di uomini, il libro dà di più. Al cinema c'è il divieto ai 14 anni e le sfumature si sfumano ancora rispetto alla saga letteraria di E.L. James. Questo senza evitare che Anastasia, Dakota Johnson e Mr. Grey, Jenny Doran, siano spesso senza vestiti, per la gioia del pubblico pagante e la difficoltà degli attori, così raccontata dal protagonista. What's a great thing about Dakota? Il bello di Dakota è che è l'unica a sapere quello che sto passando e viceversa. In un certo senso, l'uno ha bisogno dell'altra in questo processo, perché ci sono dei giorni in cui non è facile e ci viene richiesto molto, soprattutto a lei, per quanto riguarda l'aspetto fisico. Il suo personaggio è quello che tende ad essere più svestito, anche se nei due film questo è cambiato un po'. Hai bisogno di qualcuno che capisca, qualcuno sulla stessa barca dal primo giorno. Since day one as well. Ne viene fuori neanche un polpettone, ma un lento e ansimante trascorrere del tempo con le luci che fanno soft porn e in cui lei finge di non voler essere Cenerentola e lui la riempie di regali dal costo spropositato e dall'evidente product placement. Il cliché dell'io ti salverò, con i soldi lui, con l'amore lei, che di provocatorio e tanto meno liberatorio sessualmente e dal punto di vista femminile non ha nulla. E viene quasi, in certi momenti, da prenderlo in ridere per arrivare alla fine. Chi è andato subito a vederlo lo ha fatto per lui e con il sogno, inappagabile per alcune, inquietante per altre, che questo lui esista davvero. Fa sognare, cioè ti crea un'immaginazione del prototipo di uomo che forse alcune donne vorrebbero avere. Chiaramente non la parte quella più sadomaso, quella più aggressiva. È quello che vorrebbero tutte. I film si lasciano guardare, soprattutto lui si lascia molto guardare. La parte romantica, diciamo anche, la parte romantica. Vabbè, tutto il resto è fantastico. Molto meglio del primo, diciamo. Ma fai te? A noi ci è piaciuto lui? Perché è stato più fedele al libro, cosa che invece il primo no. Mi è molto piaciuto, sì sì. I libri li avevi letti tutti e tre? Li ho letti tutti e quattro volte. A me piace lui, sì, proprio il suo personaggio, sì sì. No. E tutto il contorno, i vestiti, la casa e tutto il resto? Sì, anche la musica, cioè tutto fa, tutto, cioè però è lui che fa, cioè lui, Christian Grey, che non esiste. E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato così 50 sfumature di nero, il film con il quale siamo partiti in questo nostro weekend al cinema. Fra poco, dopo la viabilità, andremo invece a parlare di una pellicola molto particolare, una vera chicca, si intitola Un re allo sbando, arriva dal Belgio, sarà con noi tra l'altro la regista Jessica Woodworth, che parla un italiano pressoché perfetto e che ci ha raccontato un po' anche il dietro le quinte di questo film. Dopo la viabilità, restate con noi. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto. Con il sistema DAB Plus posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, La Rosa Purpurea prosegue, come abbiamo detto, con un altro film, un'altra novità in sala in questo fine settimana, che arriva dal Belgio. Il titolo originale, anzi, recitava proprio King of the Belgians, il re dei Belgi. Da noi Un re allo sbando, il titolo anche divertente nella traduzione italiana, perché è proprio un re senza più punti di riferimento, quello che questo re Nicolas III, re di finzione ma comunque del Belgio, che è il protagonista di questo film. Praticamente il film racconta le riprese di una sorta di documentario su questo re un po' annoiato, un po' triste, un po' cupo. E allora chiamano un regista per fare un film che ravvivi un po' l'immagine di questa monarchia un po' ingrigita. Mentre però sono in visita di stato a Istanbul, proprio nel mezzo del soggiorno in Turchia, arriva la notizia che fa tanto rima con le notizie che abbiamo sentito durante l'ultimo anno, dalla Brexit in poi, cioè che un pezzo di Belgio se n'è andato. Queste sono le ultime immagini del re che, come un burattino, fa il giro turistico del parco. Stava per arrivare una notizia bomba. E non ci sarebbe più stato un copione da seguire. Ludovic! Ludovic! La Vallonia ha dichiarato l'indipendenza! Il Belgio non c'è più! E allora, il Belgio non c'è più, e allora il re ha un sussulto, esce dal suo grigiore e finalmente decide di prendere in mano la propria vita, di non essere, come diceva la clip, un burattino nelle mani di altri, di dover aderire a un protocollo che è sempre lo stesso. Vuol partire subito e andarci lui a salvare la sua nazione, ma non si può partire perché una tempesta spazza praticamente la Turchia, è impossibile viaggiare in aereo, e allora l'idea è quella di tornare via terra, di prendere un furgone e partire attraverso i Balcani per risalire tutta l'Europa. È chiaro che diventa un viaggio anche metaforico, e tornare appunto verso la nazione patria. È un film divertente alla belga, mi viene da dire, cioè un film con quell'ironia, anche con quell'umor nero che è tipico del cinema belga di commedia contemporanea. Pensate a un film come Dio esiste, Viva Bruxelles, tanto per dirne uno che forse rimane più in mente. Da due registi, è una coppia, Peter Brosens e Jessica Woodworth, che hanno una mano cinematografica importante, l'avevano dimostrato già qualche anno fa a Venezia con il loro film che aveva conclamato, diciamo, la loro capacità, la loro arte, si intitolava La Quinta Stagione, è un film straordinario. Lì era un film tutto ancestrale, tutto sui riti, era una sorta di disaster movie appunto alla belga anche in quel caso, andatelo a recuperare perché è un film straordinario. Però stavolta cambiano registro, ma quell'umor nero rimane appiccicato al film e ne diventa un po', da una parte, la cifra stilistica, dall'altra parte anche a livello proprio narrativo c'è sicuramente una storia che è molto figlia dei nostri tempi. E proprio di questo abbiamo voluto parlare con la regista Jessica Woodworth alla Rosa Purpurea. Sei venuto fuori dalla crisi nel 2010-11, non abbiamo avuto un governo durante un periodo di 589 giorni, assurdo, il Belgio come fonte di surrealismo. E poi c'è stato questo vulcano islandese, sì. Siamo impronunciabile, e siamo stati tutti bloccati in altri paesi, anche il presidente dell'Estonia è rimasto bloccato a Istanbul. E ha fatto in minibus i Balcani con suo equipo. Abbiamo visto delle foto, abbiamo letto degli articoli, c'era una nostalgia di una epoca quando lo spazio e il tempo è stato vissuto diversamente, perché oggi viviamo lo spazio e il tempo di un modo un po' povero. Certo. Sì. Quindi abbiamo lanciato il re, questo personaggio un po' fragile, vulnerabile, alla periferia dell'Europa, Istanbul. E abbiamo avuto, attraverso il personaggio del re, attraverso sua umanità, fa rivelare la forza, la bellezza, la ricchezza, ma anche la vulnerabilità dell'Europa. Quindi è un film, diciamo, politico, però la chiave emozionale di tutto è questo re. Perché il mockumentary? Perché non avete fatto un film di finzione in tutto? Il mockumentary, la forma, ci dà una libertà, ma anche delle costrizioni di tempo, di come girarlo. Avevamo già l'idea di farlo in un modo cronologico per lo sviluppo dei personaggi e mancava qualcosa. Avevamo bisogno di un plus, qualcosa di più. E era questa la dimensione del codice etico del documentario, che entra nella forma, via la forma, è la prospettiva di un inglese sì, che dà un po' di umorismo, certo. Un po' secco, certo. Perché gli inglesi, lo sappiamo oggi, non vogliono far parte dell'Europa. Certo, infatti una cosa che volevo chiederti è anche questa: avete preso questo tema della Vallonia che vuole andarsene dall'Europa, è arrivata la Brexit e non sono le uniche spinte secessioniste in questo momento. Non vi sembra che l'Europa stia un po' tornando indietro di due secoli? Tre secoli, quattro, non so. La paura dell'altro definisce tutto. C'è il pericolo che il progetto europeo vada a crollare, non per questo tema di tutte queste persone che stanno arrivando, ma della paura dentro di noi. Abbiamo paura di questo elemento straniero. E questa è la tragedia dell'Europa. E che pena quando vediamo lo che è successo con Brexit, vediamo che hanno votato con la paura. Vostra Maestà, buongiorno. Signor Brut. Signor Moroni, vi consiglio di mangiare molto velocemente perché sono qui per riportarvi a Istanbul. Mi scusi, ma se ci accompagnasse a Bruxelles, gliene sarei molto grato. Signor Moro, sarebbe meglio evitare un inutile scandalo. Signor Brut, io credo che lei si trovi fuori dalla sua giurisdizione. Un re in fuga non comprometterà il futuro ingresso della Turchia in Europa. Comprendo le sue preoccupazioni. E soprattutto, io non intendo perdere la mia promozione dopo 30 anni di leale e onorato servizio. La figura del re, non solo del re del Belgio, in generale, la figura dei re. In Europa ci sono tanti re anche molto amati in tanti paesi, che rappresentano sinceramente nel popolo un po' quel concetto di unità, di attaccamento alle tradizioni, alle radici, all'appartenenza, e che però sembrerebbe un simbolo antimoderno in un certo senso. Cosa rappresenta un po' questa figura, la figura reale nel terzo millennio? Non abbiamo fatto non volevamo fare una critica del re attuale nel Belgio. Non volevamo prendere in giro la monarchia in generale. C'è un valore in tanti paesi europei, la gente ama i suoi re, regine. Nel Belgio sono apprezzati, ma costa. Ma non è fatto nello spirito del cinismo anti-monarchia, sì. Il film. Dal mio punto di vista, c'è una funzione, c'è un valore. Perché unisce? Sì, per il fatto che può unire. Quindi c'è un aspetto positivo, ma viene dal passato lontano. Ma l'idea di un re lo amiamo tutti, il re, solo la parola re, c'è una storia. E ce ne sono tanti film fatti con un personaggio principale, Shakespeare lo sapeva bene. Senti, ti faccio un'ultima domanda che riguarda proprio lo stato di salute del cinema belga, ed è uno stato di salute, a vederlo da qui, ovviamente sorprendente, no? Grande vitalità, si va dai fratelli Ardenne a Jaco van Dormael, a voi, con cifre stilistiche completamente diverse, ma la capacità di fare un cinema che però ha una sua riconoscibilità. Come ti sembra questo stato delle cose, insomma? Difficile, perché no, non c'è un cinema belga, ma c'è una creatività immensa lì. Forse perché c'è gente che viene di... è molto diverso, piccolo, dinamico, ma ci sono i fondi. Quindi sì, possono sviluppare i registi giovani, possono fare delle coproduzioni importanti. Certo. E c'è l'umorismo anche. Mitico umorismo belga, sì, c'è. Certo, c'è. Certo, assolutamente. Non potrei dire come mai. Perfetto, grazie mille. Grazie mille. Jessica Woodworth alla Rosa Purpurea con Peter Brosens, regista di Un re allo sbando nei cinema italiani. A questo punto dobbiamo giocare insieme prima di metterci in collegamento con Boris Sollazzo per andare avanti con gli altri film. Fra poco ci aspetta Lego Batman, un altro dei titoli attesi e anche molto cinefili tutto sommato di questa settimana. Ma dicevo, prima giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso. Perché gridano? Non stanno gridando. Festeggiano. Festeggiano, chi sono, cosa festeggiano e soprattutto di che film si tratta. Scriveteci il titolo, se l'avete già indovinato, alla Rosa Purpurea @radio24.it con il vostro indirizzo e provate a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano di questo film che sveleremo entro la fine della trasmissione e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora adesso, linea alla regia, restate qui che perché fra poco arriva un Batman fatto tutto di Lego e c'è abbastanza da divertirsi e poi le spie della porta accanto che ci aspettano. Restate con noi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus, la rosa purpurea. Eccoci ancora insieme, la rosa purpurea prosegue con, come annunciato, con quello che potrebbe essere probabilmente il re del botteghino in questo fine settimana. Vedremo se 50 sfumature glielo permetterà, perché come dicevamo è partito molto forte. L'altro titolo di grande cassetta di questa settimana è sicuramente Lego Batman, il ritorno di Lego Movie, diciamo così, anche se tutto focalizzato su un personaggio ingombrante come quello appunto dell'uomo pipistrello. Allora sentiamo questa clip e ne parliamo. Batman! Wow! Hai detto bene, wow! Aspetta, Batman vive nella cantina di Bruce Wayne? No, Bruce Wayne vive nella soffitta di Batman. Pigiama party tutte le sere! Te lo sogni. Wow! Il Bat sommergibile! No, non toccarlo. Il Bat Space Shuttle! Per favore, giù le mani. Il Bat dirigibile! Cosa ho detto? Il Bat treno! No. E il Bat kayak! No! La Bat Tumbaghi! No! E il Bat repellente per squali! In effetti questo lo puoi toccare, è del tutto inutile. Wow, grazie Batman! Avete sentito questo Batman stentoreo, no? Questo Batman proprio che ti da dentro. È un Batman però, come dire, abbastanza preso di mira nei suoi difetti, nelle sue debolezze, nella sua irrisolutezza, quello che viene regalato allo spettatore in questo film, che come dicevo, sì, certo, va avanti con la tecnica dei Lego, come avevamo visto in The Lego Movie, tutti gli ambienti sono fatti di Lego, strepitosa la Batcaverna a livello di ambientazione, ma insomma a livello di personaggio sta molto di più su una psicologia dell'uomo pipistrello rispetto a quanto fosse stato fatto in passato. Anzi, si permette anche licenze su Batman che gli altri film di Batman, un po' tutti d'un pezzo, non potevano prendersi. Un Batman senza amici, difficoltà di relazione, forse una vaga e latente omosessualità, sono caratteristiche che negli altri film probabilmente non potevano essere raccontate. Qui lo sono con una certa ironia. Chiedo conferma al nostro Boris Sollazzo, che salutiamo. Ciao Boris. Ciao Franco, mi chiedi conferma, io te la do volentieri, perché francamente dopo aver visto Lego The Movie e adesso Lego Batman desidero rivisitare tutta la storia del cinema attraverso i Lego, perché è davvero forse uno degli esperimenti cinematografici più interessanti degli ultimi anni, che deriva da due motivi: una strettamente pratica, cioè la strategia commerciale creativa della Lego, che è sempre stata poco marketing e molta rielaborazione tra videogiochi, la costruzione, adesso va detto, letterale di universi cinematografici attraverso i mattoncini della Lego, e infine questa capitolazione cinematografica in cui ci si mette in gioco personalmente, sfruttando con ironia sia gli apparenti problemi che si possono avere con degli omini Lego, cioè una certa rigidità dei movimenti, una certa stereotipizzazione delle caratterizzazioni ovviamente, e sia appunto il fatto che ridurre a Lego un universo, se fatto con intelligenza e anche con un certo sarcasmo, può diventare qualcosa di efficace. A questo si deve aggiungere un citazionismo esasperato, ma mai esasperante, e una raffinatezza di piani di lettura per cui da una parte avrai il bambino che si divertirà come un pazzo alle acrobazie di Batman e soci, e dall'altra un adulto che si divertirà sui piani di lettura che tu citavi, e poi c'è anche il piano di lettura del cinefilo che si godrà tutti i rimandi possibili e immaginabili. Lego Batman è meno elaborato di Lego The Movie, che costruiva proprio un universo che giocava sui Lego, che giocava sul cinema, che giocava anche sulla mitizzazione che il cinema fa dell'eroe solitario in confronto a una collettività conforme come quella dei Lego, e che non viene considerata massa da snobbare, ma anzi invece da esaltare. E qui invece c'è il gusto di andare a pensare: ma se il Batman di Nolan fosse preso per quello che realmente è, non per un antieroe dedito al sacrificio, all'errore, al senso di colpa. Quindi se non la vedessimo dalla parte drammatica ma dalla parte comica, che cosa troveremmo? Troveremmo appunto un uomo irresoluto, troveremmo un uomo che non è in pace con se stesso, troveremmo un uomo che soffre chiaramente di una sindrome bipolare evidente che realizza attraverso il mascheramento. Troveremo un Robin verso cui c'è un rapporto ambiguo, edipico, e questo poi viene fatto appunto con la solita raffinatezza, perché la raffinatezza non è solo nel campo visivo, che secondo me è straordinario a livello di regia e di costruzione dell'immagine, ma anche sulla recitazione, perché nell'originale Will Arnett e nella parte italiana Claudio Santamaria danno una forza alla vocalità del personaggio che è un altro mattoncino, adesso ci vuole, per rendere questo film veramente un cult. Ecco, io mi sono divertito come un pazzo e penso che veramente tutta la famiglia potrebbe andarci e tutti vedrebbero un film diverso, ed è una forza. Decidi cosa vuoi fare, Batman? Salvare la città? O catturare il tuo più grande nemico? Non puoi fare tutte e due. Scusami, che hai detto? Non puoi fare tutte e due. No, quell'altra cosa. O la città o il tuo più grande nemico. Sei il mio più grande nemico? Sì, sei ossessionato da me. Non è vero. Sì, invece. Non è vero. Sì, invece. Chi altro ti costringe a fare sempre un salto di qualità? Bane. Ma quando mai? Superman. Superman non è un cattivo. Allora si vede che al momento non ce l'ho un cattivo fisso. Diciamo che mi batto con tante persone diverse. Che cosa? Mi piace battermi in giro. Batman Lego, anzi Lego Batman nei cinema italiani, assolutamente promosso. L'unica cosa che ho un po', come dire, sofferto è un montaggio ritmato al livello della frenesia. Forse, ecco, lì forse un attimino bisognava staccare, anche se ci sono dei momenti di vuoto, addirittura di silenzio, impensabili per il cinema di oggi, nei quali questo Batman di battoncini, come dire, cerca di ritrovare se stesso, invece trova solo il suo smarrimento. Quindi tutto sommato il tentativo è abbastanza riuscito. Giochiamo ancora insieme. Abbiamo la seconda traccia del film misterioso di oggi. È incredibile. Avete decifrato gran parte del loro linguaggio. Loro davano la caccia a noi. Noi abbiamo imparato come dare la caccia a loro. E allora, avete indovinato il nostro film misterioso? Di che film si tratta? Scrivetecelo alla Rosa Purpure, a @radio24.it, col vostro indirizzo, perché ci sono due Blu-ray di questo film che andranno a due nostri ascoltatori. Il film lo risolveremo fra poco, i Blu-ray li annunceremo la prossima settimana. Allora, alleggerisci, fratello, come dicevano, anzi era sorella, con Hercules. Andiamo con una commedia d'azione, commedia pura in un certo senso, però con lo sfondo della spy story. È anche questo un sottogenere della commedia, stiamo parlando delle spie della porta accanto. I nuovi vicini sono arrivati in fretta, eh? Ehi, tesoro! Spie ancora i vicini? Salve! Noi siamo i Jones! Che strada incantevole. I cinesi non hanno una parola per una strada come questa. Direbbero Shingi Nanli Gundu Quanatu di Fong. Sembra fico, detto dalla tua bocca. Tu non li trovi un po' strani? Sono così super realizzati e super trendy. Sto pedinando Natalie Jones. Ciao, Karen. Natalie! Lasciavo un messaggio a Tim. Gli piace sentire la mia voce quando provo l'intimo. È una cosa nostra. Voi ce l'avete, una cosa vostra. Noi facciamo una sveltina nel caso i ragazzi ci piombino in camera. La vita di tutti i giorni, quando di fianco ti vengono ad abitare due spie. Chiaramente le cose, come dire, cambiano. È un po' l'assunto di questo film, che titola in originale Keeping Up with the Joneses. E i Jones sono proprio questi nuovi vicini di casa che mettono un po' per aria la vita di questa tranquilla coppia e che scoprirà che non sarà facile stare al passo con questi vicini ingombranti. Zach Galifianakis è il nome di spicco del cast, sicuramente. Boris, è una sorta di sottogenere della commedia americana questo, no? Un po' slapstick da una parte, ma molta azione per ridere e anche avere un ritmo, diciamo, elevato. Sì, la vita del cinema, sì, la vita del vicino è sempre più figa, verrebbe da dire, no? Scimmiottando un vecchio proverbio, c'è questo sottogenere americano, secondo me, che ha esaurito le sue potenzialità abbastanza in fretta, che è quello del confronto tra vicini completamente diversi. In questo caso non c'è il vicino casinista con cui entrare in conflitto, ma c'è il vicino cool che inevitabilmente crea invidia, no? Appunto, quell'erba più verde che tutti hanno in mente quando pensano a qualcuno che magari ha la casa più grande o una vita più bella. Il problema di questa commedia è che forse aveva anche trovato una chiave nel soggetto che poteva rivitalizzare questo sottogenere non straordinario, che era appunto dare una vita segreta a questi vicini, insomma dare ai vicini più normali una finestra sul cortile da cui spiarli. C'erano anche quattro attori che avevano a livello di immagine personale il giusto physique du rôle per affrontarla, perché Zach Galifianakis e Isla Fisher sono una bella coppia comica e non saprei dire chi è più cool tra Don Draper e Gal Gadot, insomma tra Don Draper e Wonder Woman, tra John M e Gal Gadot, appunto. E il problema è forte, intanto, è che tra trailer e titolo in Italia praticamente non avrete sorprese, perché all'inizio non dovreste sapere che i due più belli, più bravi e più affascinanti sono delle spie, però certo se vi traducono in italiano stare al passo coi Jones, le spie della porta accanto, vi hanno bruciato l'unico colpo di scena di tutto il film. Dall'altra parte, quelle qualità di cui parlavamo degli attori non vengono affatto sfruttate, anzi sembra che vogliano essere castrate, perché da una parte Isla Fisher è sì esplosiva, anche brillante, ma non è cattiva e sarcastica come sa essere, e quindi non viene sfruttata anche nelle sue capacità fisiche oltre che comiche. E Zach Galifianakis è forse nella interpretazione più per sottrazione di tutte le sue commedie. Dall'altra i due sembrano più due manichini, due disegni statici che ricordano le loro interpretazioni più importanti, dalla esoticità di Gal Gadot appunto alla stentoreità di John M, ma non riescono poi a portare allo spettatore quell'emozione, quella fascinazione che dovrebbero. La cosa che più sconvolge tra virgolette è Greg Mottola, che quando doveva, si dice a Napoli, friggere il pesce con l'acqua con Superbad e Adventureland, faceva dei capolavori e dava un'elettricità alla messa in scena più unica che rara. Adesso che ha le possibilità di cast e di budget, sembra essersi imborghesito e ha una scrittura talmente esile che dopo mezz'ora hai l'impressione di aver visto già tutto il film. E quindi veramente mi sembra un'occasione persa abbastanza clamorosa questa spia della porta accanto. Detto questo, bisogna essere onesti, qualche sorriso si fa, un po' di intrattenimento c'è, quindi non è proprio un disastro, però di sicuro la somma dei talenti è maggiore del risultato. E allora questo è Le spie della porta accanto. Boris, rimani con noi perché subito dopo la viabilità abbiamo un altro film di cui parlare, 150 mg, fra poco. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono tre giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora qui, il quarto blocco della Rosa Purpurea. Fra poco tutto il cinema da vedere in casa, la soluzione del nostro film misterioso, i vincitori della scorsa settimana. Però prima lo spazio per un altro film in sala, uscito questa settimana, è un legal thriller alla francese e si intitola 150 mg. Imputare tale patologia al nostro solo farmaco testimonia una scarsa conoscenza della questione. Non è una critica, lei è una pneumologa, non una cardiologa. Ma così facendo potremmo mettere sotto processo anche l'aspirina, capisce? Non sono una ricercatrice e non sono una cardiologa, in effetti. Ma ho passato l'ultimo anno di specializzazione in un reparto di pneumologia, dove ho visto delle giovani donne morire dopo che hanno assunto un altro dei vostri farmaci, e precisamente l'isomeride. Insomma, sotto accusa ancora Big Pharma, una pneumologa dell'ospedale di Brest scopre un legame fra questo farmaco e il decesso di alcuni suoi pazienti, e parte appunto un thriller, un legal thriller, con questa donna che ovviamente dovrà guardarsi anche dalla potenza, anche occulta, di questo nemico. Boris, forse la novità più importante di questo film, che nel cast ha, tra l'altro, tra gli altri, Benoît Magimel, che è un volto abbastanza... noto del cinema francese, dicevo, forse la novità è il fatto che è francese, cioè il legal thriller siamo abituati ad associarlo a tanti grandi film americani, qui invece con questo genere si sono cimentati in Francia. Sì, esattamente questa, perché nel messo in scena, onestamente, 150 milligrammi, visto che critichiamo dall'altro sempre i titoli in italiano, qui La ragazza di Brest diventa 150 milligrammi e secondo me ci guadagna, insomma, a livello di hype che si può creare attorno a un film. Però effettivamente non c'è molta novità nella messa in scena, perché abbiamo già visto da Filadelfia all'Uomo della Pioggia, veramente potremmo fare mille esempi, questo tipo di medical legal drama. La cosa curiosa appunto è che lo fa il cinema francese, e lo fa piuttosto alla francese, con Benoît Magimel che ricorda il film italiano Resolution 819, e ricorda molto quel ruolo di burocrate che vuole la verità, ma vuole anche rimanere dentro le regole. Magimel è veramente un attore molto particolare, sostanzialmente unico nella sua apparente assenza di espressività, che però diventa invece un grande talento. E lo fa alla francese, soprattutto nel tratteggiare questa protagonista bravissima. Il nome dell'attrice è impronunciabile, ma il talento è chiarissimo, che dà uno spessore alla sua interpretazione particolare, perché ne risalta un carattere bizzarro, un carattere che non ti aspetteresti da un Erin Brockovich alla francese. È molto più sfaccettato, molto più particolare, anche fragile, anche criticabile, ma non è criticabile ovviamente la lotta che lei porta avanti, che è la lotta più facile da raccontare al cinema, perché c'è un villain a tutto tondo. Chi è più cattivo di colui che uccide per profitto, sostanzialmente, anche se non lo fa apposta? Il fatto che non si fermi lo fa diventare un mostro da una ferocia indescrivibile, tra l'altro senza volto, l'ideale, insomma, per un cinema che vuole indignare. C'è da dire che in questo caso, probabilmente, al di là dello stile, sapere una storia in più di questo tipo è sempre importante. Se viene raccontata cinematograficamente, dignitosamente e a livello di emotività in maniera così potente, assolutamente da promuovere. Quindi 150 milligrammi, Sidse Babette Knudsen è la protagonista del film, effettivamente vicina all'impronunciabile. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, abbiamo così archiviato l'ultimo film in sala e passiamo quindi al cinema da vedere in casa, come sempre, cominciando col riascoltare una traccia del film misterioso di 7 giorni fa. Vogliamo tutti e due la stessa cosa, no? Vogliamo abbattere le istituzioni corrotte che controllano la società. Io non sto dalla tua parte. E allora, si trattava di Jason Bourne, ennesimo capitolo della saga, insomma, omonima. Vincitori sono Mauro Beri di Azzate, provincia di Varese, e Lorenzo Di Giulio di Roma. Sono loro i due ascoltatori che per primi hanno indovinato il titolo del film e che riceveranno il Blu-ray di Jason Bourne, che ci facciamo raccontare così da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, cambiano i tempi e la saga di Jason Bourne torna, facendosi più che mai specchio del presente. Abbandonati i super sicari e dimenticato lo spin-off poco amato The Bourne Legacy, l'intreccio verte sul braccio di ferro tra servizi deviati e corporazioni dell'informatica. La posta in gioco è la privacy digitale e Jason viene coinvolto dalla compagna Nikki, una sorta di Edward Snowden al femminile, per svelare l'arcano. Di nuovo inseguito da assassini e soprattutto da onnipresenti telecamere e satellite, e corre nella maniera più sfuggente, nel consueto flipper di location, che è veramente un impressionante tour de force stilistico del regista, dove i tagli di montaggio, i movimenti di macchina si rincorrono molto frenetici fino a un finale quasi astratto. Insomma, il riversamento Blu-ray era difficile, ma sta al passo di Jason e del 4K, e non è una cosa facile con immagini come queste. Molti extra con commento del cast, dei filmmaker, degli stunt, dei coordinatori dei combattimenti e contenuti dietro le quinte che portano gli spettatori dentro la realizzazione di sequenze veramente spettacolari. È da citare anche una sfiziosa edizione Steelbook. E questo era il game della scorsa settimana. Giulio, andiamo avanti un po' con le segnalazioni dalla prossima settimana dalle televisioni in chiaro, perché mentre nelle sale sta avendo successo Smetto quando voglio Masterclass, è possibile ai nostri ascoltatori vedere il primo film Smetto quando voglio domenica 12 febbraio su Rai 4 alle 21:15. Sì, la commedia all'italiana è sempre stata in grado di proporre un'alternativa alla realtà sociale nostrana, raccontando problemi, uomini problematici e mostri, ma facendoci ridere di questi, facendoceli vedere sotto un altro punto di vista. Insomma, Smetto quando voglio, di cui è nelle sale il secondo capitolo intitolato Masterclass, è una versione contemporanea, un po' action e un po' acida dei soliti ignoti, solo che i protagonisti qui sono eccellenze universitarie non prese in considerazione del mondo del lavoro. Così costruiscono una banda di ricercatori precari e si trovano in un film che strata un colpo grosso al casinò e una puntata di Breaking Bad. Vi assicuro che non è poco per gli orizzonti della commedia italiana. Giovedì 16 invece un salto indietro, un salto nel passato con un film molto particolare da recuperare di Luigi Comencini del 79, si intitola L'ingorgo, una storia impossibile. Un uomo d'affari e la sua segretaria rimangono bloccati a bordo della loro Jaguar in un grande ingorgo nei pressi dell'autostrada romana, e sono circondati da individui di diversa origine sociale. Con il passare delle ore la situazione degenera e lascia campo a pregiudizi, egoismo e violenza. Il film di Comencini è una sorta di controcanto grottesco, sfatto, paralizzato delle corse del sorpasso. L'auto qui diventa un oggetto privato di funzione, immobile, un feticcio e una prigione per la varia umanità, umanità che viene messa a nudo dal regista in questo imbottigliamento che pare non avere mai fine. È una galleria di nuovi mostri distribuiti tra diverse classi sociali che sono tutti affetti dai medesimi disturbi, dall'indifferenza all'omertà. È un film che certifica proprio l'annerirsi e il farsi un po' marcescente della commedia italiana di fine anni 70, con gli anni 80 alle porte, una visione del mondo che si fa sempre via via più apocalittica. Ricordiamo l'appuntamento con L'ingorgo, una storia impossibile, su Rai 1 alle 2:05 di giovedì 16 febbraio. Grazie Giulio e buon lavoro a Fil TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Ricordo però prima il film con cui abbiamo giocato questa settimana. Si trattava di Independence Day, Rigenerazione. Chissà chi avrà vinto, lo scopriremo fra 7 giorni. Per il momento grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.